Bene, adesso vogliamo tuffarci in quello che è il passo di questa mattina. Solo una piccola prefazione, perché siccome poi tutti guardano al mio naso, allora lo devo dire, dice sempre. Allora, siamo stati al rifugio ieri a fare i lavori e siccome gli attrezzi e le cose che io utilizzo non vanno mai d'accordo con me, allora, e che cosa possono colpire nel mio corpo? Il naso, va bene? Quindi grazie a tutti quelli che c'erano ieri, è stato molto molto bello. E a quanti hanno intenzione di venire ma non possono, siete anche voi una gioia. Comunque adesso tuffiamoci in quello che è il passo, uno dei passi più sorprendenti della parola di Dio. Noi possiamo saltare di leggere tanti passi nella Bibbia. Abbiamo letto Ecclesiaste, qualcosa andava pure saltato, però l'abbiamo letto, va bene? Ma questo passo deve essere come un cibo quotidiano. Leggiamolo insieme. So infatti, questo è Filippesi, sempre capitolo 1, dal verso 19 al verso 26. So infatti che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo. Secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non avere da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora, come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti, per me, il vivere è Cristo, e il morire guadagno. Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Però non è fino al... Ah, c'è ancora. Vedete che io vi senti, dite quel che volete. È questo che fa fede. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio, ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Ho questa ferma fiducia che rimarrò e starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede, affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù. Incredibile. Tutto l'Evangelo e tutta l'opera che Gesù ha compiuto, Paolo lo ha messo in un motto: vivere è Cristo, morire è guadagno. Non è incredibile questo? Vivere è Cristo. Quello che noi viviamo quotidianamente è Cristo. Morire è ancora meglio. E ancora meglio, chi ha questa prospettiva? Morire è meglio. Chi è che ha questa prospettiva? Morire è meglio. Valla a dire in giro. Come minimo, ma va bene, ti prendono per pazzo. Però il bello è, se ricordate l'ultimo passo della settimana scorsa, proprio Paolo confessava e diceva: mi rallegro e mi rallegrerò. Vi ricordate di che cosa si rallegrava l'apostolo Paolo? Del? Qualcuno ha azzardato, però si è ritirato subito, dice che mi secchi la lingua. Mi rallegro e mi rallegrerò del fatto che il Signore Gesù è annunziato per invidia, per gelosia o per per il bene. Non fa niente, Cristo è annunziato. Si rallegra, l'Apostolo Paolo è pieno di gioia per il fatto che, Cristo è annunziato. La gioia di Paolo viene proprio da questo fatto, che Cristo è annunziato, la gioia tua, la gioia mia. Mi raccomando, vi supplico, non deve venire dalle faccende quotidiane, perché domani ci sono di nuovo, ci sono gioie oggi, dolori domani o viceversa, ma la vera gioia è nel poter dare la speranza di Cristo a ognuno. Paolo era gioioso perché Cristo era annunziato, ma ancor di più perché lui era uno strumento nelle mani di Dio per annunziare l'Evangelo, per annunziare Cristo. Questo era il suo orgoglio, questa era la sua gioia, questo era quello che gli faceva dire: vivere è Cristo, vivere è Cristo, perché tutto il resto, lo diciamo sempre, passa e non ha valore. Lo so che siamo tanto legati a quello che abbiamo, però la verità è nella parola di Dio. Ecco perché dobbiamo dire l'uno all'altro e a noi stesso: sii distributore della speranza di Cristo Gesù. Perché nel momento in cui tu distribuisci anche un solo pezzettino, una parola, un gesto o qualsiasi cosa, metti dentro di te un generatore di gioia. Quello incomincia a generare gioia nella tua vita, nella mia vita, perché noi affidiamo agli altri un pezzettino di cielo. È incredibile, ma è così, anche se non lo vediamo, anche se non ci rendiamo conto, anche se non lo viviamo vivamente, ma accade, perché non sei tu a farlo, ma è il Signore, ma è il Signore Gesù. E per questo, per Paolo morire era una promozione. Era una promozione. Ha usato il termine, abbiamo letto, è molto meglio, non è solo meglio, è molto meglio. È molto meglio andare con il Signore. Chi usa un termine simile, che chi afferma una cosa simile, vuol dire che ha conquistato, che ha afferrato il massimo, che ha capito. Quando noi possiamo usare questo termine per noi stessi, essere con il Signore è il meglio della mia vita, allora vuol dire che abbiamo afferrato l'essenza della gioia, della speranza e anche del futuro. Questo è eternità, morire è guadagno, è vita eterna. Ecco perché è guadagno, è vita eterna, è vita eterna. Come dire, ma tu lo sai, credo che lo sai, ma tu lo sai che nessuno, che proprio nessuno, nessuno, nessuno ha una speranza e una visione simile? Tu puoi far parte di qualsiasi religione e non avere questa speranza viva dell'eternità, del dopo, perché ogni tipo di religione che esiste ha una forma di paradiso. C'è chi il paradiso è nella reincarnazione, deve ripetere, ripetere fino a quando purifica tutti. C'è chi il paradiso è 10 vergini e una casa che non finisce mai nel paradiso. C'è chi è, ma qualsiasi cosa, solo in Cristo Gesù, tu ed io abbiamo la speranza della vita eterna. Ripetilo, ripetilo ogni volta che ti vedi davanti allo specchio: non finisce tutto qui, non finisce tutto qui. Noi abbiamo la speranza della vita eterna. Che cosa? Anzi, è da dire anche questo, che la visione dell'eternità, la visione che noi possiamo avere, che abbiamo dell'eternità, ribalta, rinnova e cambia anche la speranza della nostra vita quotidiana, di quello che viviamo. È quello che rinnova, è quello che trasforma. Che cosa stai vivendo? Scrivilo. Credo che i fogliettini ce l'abbiamo, no? Allora, io non è che ho fatto proprio che a me, ma alcune domande. Scrivilo, scrivilo. Almeno una situazione che tu stai vivendo oggi. Scrivila, perché è importante che tu ce l'hai presente, quella situazione io sto vivendo. E poi proclama a te stesso che hai un futuro. E questo futuro lo dà proprio quello che Cristo ha fatto per noi. Io lo so, voglio essere molto pratico, non voglio enfatizzare quello che è il paradiso, il dopo, ma pratico, perché il paradiso è anche qui per noi. Non dobbiamo aspettare la morte. Lo so che l'infermità, che i problemi, che i pericoli che corriamo creano la paura dentro di noi. L'abbiamo cantato, non più paura, la paura per la morte. Quanti vivono, non credo in mezzo a noi, no, non spero in mezzo a noi. Quanti vivono la paura della morte? È incredibile, se parli in giro ti rendi conto che tante persone temono di morire, perché lasciano quello che hanno, e se vai a chiedere ma che cosa hai, ti parlano di sofferenze e di dolori. Gesù ha detto, Matteo 10, Gesù ha detto: non temere chi può ammazzare, uccidere, far perire il tuo corpo. Temi piuttosto chi? Beh, continuate. Ehi, che se non ci nutriamo della parola di Dio, la speranza è spicciola proprio, va bene? Perciò la dobbiamo usare a proposito e a sproposito. Non lo dico io, l'ha detto Paolo, va bene? L'apostolo Paolo. Temi piuttosto chi può uccidere e far perire l'anima tua. Quello è il male più grande. Anzi, poi, se noi andiamo a vedere anche quello che l'apostolo Paolo, ma il salmista, qual è? Se non rispondete a questo, vuol dire che siamo messi male, male, male. Qual è il salmo più famoso? 23. Vabbè, sono tanti famosi, dai. Che cosa dice il Salmo 23? Anche quando l'ombra della morte si impossessa dei miei pensieri e dei miei sentimenti, io non temerò. Perché? Perché il Signore è il mio sostegno, il Signore è la mia guida. Questa è la visione che Dio mette dentro di noi per tutto quello che siamo, per tutto quello che facciamo. Perciò quello che stai vivendo in questo tempo, in questa fase della tua vita, mettila davanti a questa prospettiva. Che Gesù è il tuo bastone, che Gesù è la tua verga, guida e sostegno in ogni cosa, ma lo dobbiamo coinvolgere, va bene? E possiamo anche dire, saremo miseri se noi, quando noi parliamo anche di morte, allora che cosa ci aspettiamo? Allora, in fondo, se siamo naturali, materialisti, come dire, allora pensiamo, se parlando della morte, pensiamo agli scongiuri. E lo vediamo in giro, no? Che chi abita vicino al cimitero lo vedono, anche in macchina lasciano il volante per farsi il segno della croce. Perché? Perché il segno della croce? Perché dire, tu stai lì e io sto qui, è come una scaramanzia, è un allontanarsi. Oppure per i credenti, per noi, la cosa più spirituale che possiamo pensare al dopo, all'eternità, è Apocalisse. Strade d'oro, mare di cristallo, vestiti bianchi, ma non ti vuoi portare la lavatrice con te, com'è? È una metafora per dire, se tu ti accontenti di strade d'oro e di un mare di cristallo, non lo so, scivoli sopra, lo vedi a me, andrei con il naso sempre, è molto di più. Noi non sappiamo, non ci è dato da sapere come sarà esattamente alla presenza di Dio, perché se ci pensi, impazzisci, dici l'eternità e non mi annoierò? E che devo fare tutta l'eternità? È scritto una sola cosa, che Dio sarà tutto in tutti, tutto dentro di noi. Quindi riempirà ogni vuoto, riempirà ogni cosa e noi vivremo qualcosa di molto, che è indescrivibile. Quindi, però, è vero che noi non sappiamo come sarà il dopo, non c'è dato da sapere se non alcuni accenni, però io un'immagine di quello che troveremo dopo, io ce l'ho e ve la mostro. È la diapositiva, non è il... Verrà, arriverà, non vi preoccupate. Questo troverai dopo. Il tuo fratello, la tua sorella, la Chiesa. Questo è quello che trovi dopo, certamente. Perciò è adesso che noi dobbiamo impegnarci ad essere a fianco l'uno dell'altro per realizzare quello che il Signore ci ha messo davanti e quello che Paolo ci consiglia e ci stimola con tanta gioia. Ora vogliamo vedere abbastanza velocemente i motivi pratici che hanno portato a Paolo a dire è meglio essere con il Signore. E sono motivi che noi possiamo tutti quanti intuire e che viviamo anche. Ha detto è meglio con il Signore perché si sentiva, ecco, diciamolo biblicamente, che il suo cammino su questa terra stava terminando. Ed è logico che lui avvertiva una cosa del genere. Perché? Perché era in prigione, perché era là. E poi anche puoi dire, anzi, cambiamo pagina, puoi dire, perché io leggo i pensieri, tutta quella immobilità che avete, e puntare gli occhi su di me e dire, e tu, lì sei, no? E io vi dico, io non sono a quel punto. Sai perché? Non sono a quel punto mentalmente. Poi può accadere di tutto, non ha importanza, perché Cristo veramente è la gioia infinita. Perché questo è anche, come volete, mettetela come volete, merito o colpa del pastore. Mette sempre nuove sfide davanti, e io le faccio tutte mie. Le faccio tutte quante mie, perché io credo che questo è quello che il Signore chiede a noi. Perciò Io dico, come Paolo ha anche detto, quindi io prendo molto e afferro quello che Paolo dice, ho da fare. Va bene? Tu hai da fare. Tu hai da fare, noi abbiamo da fare. Lo sai che abbiamo da fare nell'opera del Signore. Non ti affaticare, la parola di Dio in Matteo lo dice, tu ti affatichi per l'oro, per l'argento e questi fanno ruggine e tigna. Affaticati per le cose eterne, per le cose che non arrugginiscono. Perciò un atteggiamento che noi dobbiamo avere e che io ho per me, lo dico sinceramente, io non mi piango addosso. Non piangerti addosso quando ci sono cose. Paolo, prendiamo l'esempio di Paolo, ha saputo trasformare la disperazione della prigione e l'ansia dell'attesa, perché si trovava in prigione e era in attesa di un giudizio che lo avrebbe portato da lì a poco alla morte. Lo trasforma in gioia di vita. E sapete qual è il segreto? È molto semplice. Sapete come ha fatto Paolo? E lo faccio anch'io, io lo devo dire sinceramente, lo faccio anch'io. Io guardo, Paolo ha guardato a quello che aveva. Una bilancia. E lui avrà detto a se stesso, perché io mi identifico, ha detto sì, la prigione e l'attesa della decapitazione, così si dice che sia morto Paolo, del essere giustiziato, va bene? E dall'altro che ho, se guardate, dice l'unica cosa che ho la libertà di annunziare Cristo. E questo nella prigione, con tutta la disperazione che lui aveva, non ha fatto il pretorio, l'ha convertito tutto, è incredibile, il pretorio era il massimo organo di comando a Roma e lui ha parlato lì a tutti i pretoriani e ha fatto vivere Cristo, accettare Cristo, tutti quelli che andavano, lui parlava del Signore Gesù e questa era la fonte inesauribile di gioia e di speranza dentro di lui. Perciò Paolo diceva anche a se stesso, penso io, non mi rimane molto tempo, lo posso dire anche a me, non mi rimane molto tempo. Per quanto noi ci auguriamo da qui a 100 anni, ma anche i 100 anni arrivano. Allora non hai molto tempo, non hai molto tempo. Durante il giorno, se tu togli l'attività lavorativa o di casa, l'attività con i figli o con tutte le altre cose, le attività di andare a fare spese e di andare a vestirti, che ne so io, tutte queste, non rimane tempo. Hai poco tempo, abbiamo poco tempo, usiamo come Paolo quel poco tempo per farlo diventare fonte di gioia in tutto quello che facciamo nella nostra vita. Poi di Gesù è detto, questo è molto bello, di Gesù è detto, non lo so se l'abbiamo scritto, sì, allora, in Ebrei, al capitolo 12, il verso 2 dice, per la gioia, ecco, è scritto, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Per la gioia di quello che aveva dinanzi, la croce è diventato solo un passaggio per la gioia di quello che il Signore vuole realizzare in te nel futuro e per la tua vita. Quello che stai vivendo sono pagliuzze, anche se sono piene di difficoltà, passano. passa. Ecco che devi rinvigorire te stesso nel dare e nel annunziare Cristo. E allora io dico a noi stessi, in tutto quello che viviamo, una sopportazione in più non fa male. Una parola dolce fa bene all'altro e fa bene anche a te. Un'azione buona, una trasmettere pensieri e parola di Dio all'altro. L'altro può anche non sentirlo, ma rinvigorisce la tua persona. Questa è la prospettiva che il Signore mette davanti a noi. Ma andiamo oltre, anzi a noi questo passo lo dobbiamo leggere, perché Paolo lo dice a noi, quello di dopo. Vedete che cosa dice di noi. Perché la nostra, tutti ad alta voce, la nostra momentanea. Io vi assicuro, io lo posso dire, che 75 anni passano in un batter d'occhio. La nostra momentanea, leggera, quello che abbiamo detto prima, afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo. Convinciti, convinciti. Puoi avere la cosa più bella, la cosa più grande, puoi avere la cosa più eccezionale, è per un tempo. Ma quelle che non si vedono sono eterne. Costruisci per l'eternità, dice il Signore. E non lo sappiamo come sarà, ma sarà qualcosa di glorioso. Dice ancora un'altra volta, è meglio Paolo, prendiamo un altro aspetto, che è un aspetto anche realistico, perché io mi sono rispecchiato e perciò dice è meglio andare con il Signore. Perché? Perché oppresso da problemi. E era oppresso da problemi, quotidianamente. E poi non bastavano i suoi problemi. Ricordiamo, non lo dimentichiamo, era in prigione in attesa di giudizio. Non bastavano i suoi problemi, c'erano pure le persone che gli andavano a piangere addosso. Allora, non ti caricare del pianto degli altri, dai la parola di speranza che è vittoria in Cristo Gesù. Mia moglie sempre, quando sente un problema, blocca tutto e prende un atteggiamento. Sapete che cosa dice? Preghiamo. Preghiamo. Perché è nel Signore che noi abbiamo e possiamo avere la vera soluzione. E il vero futuro è proprio questo. Siamo noi l'uno verso l'altro, diciamo, dispensatori, di distributori, come vogliamo essere, di speranza. Invece che quando l'altro ti racconta un suo problema, io sono molto pratico, credo che lo vivo io allora, invece di dire sapessi io, no, dai una parola di speranza in quello che l'altro sta vivendo, e questo rinvigorisce l'altro e rinvigorisce anche a te. Proclamalo a te stesso che hai l'eternità, proclamalo a te stesso che il tuo bastone è il Signore, proclamalo a te stesso che il Signore ti guida in tutte le cose, e questo poi lo vedi quello che il Signore fa. L'ultimo aspetto di quello che Paolo, ed è quello vero, questi potevano essere ipotetici, ma questo è vero quello che Paolo sta vivendo, dice è meglio essere con il Signore, perché Paolo ha sperimentato Gesù. come l'hai sperimentato tu e come l'ho sperimentato io. Paolo ha avuto una visione incredibile. Quanti di noi hanno visioni? Paolo ha avuto parole chiare, altri che sono andati a lui e dicevano: accadrà questo di te. Lui stesso ha ricevuto parole: vai qui e vai lì. Sperimentava il Signore nella quotidianità, in tutto quello che lui si accingeva a fare, era il Signore alla guida della sua vita. Fa che sia il Signore alla guida delle tue problematiche e delle tue situazioni, e questo crea un profumo di eternità. È realmente incredibile. L'eternità è una tappa di oggi, non è dopo che sono morto. Adesso stiamo vivendo il Giro d'Italia, è vero? Allora vediamo chi lo vede, chi lo segue, chi piace o al telegiornale. E ho sentito questa frase proprio che io ho detto, perché hanno già la maglia rosa e poi come hai programmato per vincere quella, dice: io guardo alla tappa di oggi. Noi dobbiamo correre quello che corriamo con il Signore oggi, e questo crea eternità. L'ultimo aspetto, e terminiamo, e questo forse è il più bello di tutte, è anche un poco ridicolo, perché Paolo dice: è meglio essere con il Signore. Però, dice, c'è un però nel verso 24, 25 e 26, dice, però, Paolo dice, sono necessario, sono utile per te. E finché io posso essere utile per te, il Signore mi darà forza, mi darà gioia e mi darà la costanza di continuare, perché io posso essere utile per te. Paolo ha scritto questa lettera a cavallo fra gli anni 50 e 60 dopo Cristo. Pochi anni dopo, un paio di anni dopo, è stato giustiziato. Ma le parole di Paolo, dice, quando io vi sarò restituito, lui sapeva che doveva ritornare dai Filippesi, probabilmente non è mai più tornato, ma è tornato ai Filippesi la vita di Paolo come lui l'ha vissuta. Ora vogliamo terminare alzandoci in piedi e svolgendo una piccola attività. Ci alziamo in piedi per piacere? Ecco. Adesso girati al lato, girati dietro, girati avanti, dove vuoi, e di a chi ti sta a fianco, a chi prendi, dici: sei utile. Lo facciamo? L'hai fatto. Un'altra cosa adesso. Vai alla stessa persona e dici: che cosa hanno detto? Senti, esci fuori. Devi dire: sei molto utile. E adesso abbraccia il fratello. Adesso abbraccia il fratello, benedicilo e prega insieme a lui, benedicendo la sua utilità. Facciamolo ognuno, fallo con il fratello. Prega e terminiamo in questa maniera.